Per un brevissimo saluto e un cordiale benvenuto a tutti voi alla presentazione di questi due volumi che, come è noto, rappresentano la stampa di un impegnativo convegno che è stato fatto qui dall'Istituto di Scienze Religiose e naturalmente desidero compiacermi innanzitutto con coloro che più che hanno curato i due volumi, sia il professor Baldini che il nostro collaboratore Zuccalli. In modo particolare con l'Istituto di Scienze Religiose, che con queste opere inaugura la terza serie bibliografica, la terza collana. Come è noto, l'Istituto di Scienze Religiose, che da questo punto di vista è molto prolifico, ha una prima collana che sono le pubblicazioni generali, diciamo, dell'Istituto di Scienze Religiose, che si articola in una serie di base, in una serie major, così. Della prima sono già usciti 14 volumi e un paio di volumi stanno uscendo sulla seconda. Una seconda collana, che è la Biblioteca Rosiniana, ha già visto la pubblicazione di un primo volume, che è la formazione di Antonio Rosmini nella cultura del suo tempo, e sta uscendo ora il secondo volume, sempre sulla filosofia e assesi di Antonio Rosmini. E con questa si inaugura, almeno formalmente, la terza, questa collana Religione e Cultura, anche di grande attualità, ed interesse che esce per la Morcelliana, come anche la Biblioteca Rosminiana, mentre la prima serie esce attraverso le edizioni peoniane. Ecco, questa qui della Morcelliana, queste sono le prime due opere, anche se nel frattempo, e questo sta soltanto a dimostrare la solerzia e anche la produttività di questo istituto, è uscito quello di Nicoletti, Trascendenza e Potere, e uscirà quanto prima, che è già in stampa, anche il quarto volume, penso Nicoletti e Schleiermacher in filosofia e teologia. Ecco, questo per dire, per un doveroso riconoscimento, nient'altro, non di più, da questa parte, dell'impegno e dell'attività che l'Istituto di Scienze Religiose porta avanti e quindi un incitamento ulteriore, appunto con l'aiuto e la collaborazione di tante menti e di tante intelligenze che così aiutano l'Istituto nell'adempimento di quella che è questa, la funzione che si è data. Grazie e buon lavoro. Ecco, proseguo questa breve introduzione per dire che la Fiera di Santa Croce, localizzata anticamente proprio in questo rione che da questa chiesa prende il nome, no? Questa volta ci presenta alla nostra attenzione i due splendidi volumi sul silenzio e la parola. Non ripeterò qui le lodi del convegno dell'ottobre del 1987, di cui ora si pubblicano gli atti, convegno che fu indubbiamente tra i più ricchi e qualificanti celebrati dal nostro istituto. Rileverò solo come tutti i 41 relatori che allora vi cooperarono con relazioni e comunicazioni hanno corrisposto esemplarmente consegnando i loro testi elaborati per l'edizione a stampa. Alcuni di essi ci onorano anche oggi della loro presenza e sono con noi in questo momento di festa. Mi permetto di ricordarli con saluto speciale: il padre Giulio Bassetti Sani, membro del nostro istituto, il dottor Silvano Zucal, naturalmente, poi il professor Silvano Buscaroli dell'Università di Bologna, professor Marcello Farina, docente di filosofia, studioso presso l'istituto nostro, il professor Bruno Lauretano dell'Università di Salerno, il professor Armando Savignano dell'Università di Trieste, il padre Alfeo Valle, studioso rosminiano di Rovereto, il professor Lorenzo Zani del Seminario Teologico di Trento. Questi almeno io ho in nota, chiedo venia se magari all'ultimo momento qualcuno è sopravvenuto che non è in nota. Comunque, gli altri hanno mandato una loro adesione significativa e che esprime la loro adesione, la loro spirituale presenza. Li ricordo per primi perché sono essi effettivamente gli autori del libro. che ci mette in modo nuovo ora a contatto con il loro dono spirituale. Sono così a nostra disposizione in modo stabile per una lettura integrale o frammentaria che si voglia, accurata o frettolosa, sistematica oppure occasionale, consegnati comunque a noi questi contributi perché possiamo valercene in quelle condizioni di tempo e di spirito che saranno le nostre. Questo mi sembra ciò che più è peculiare al dono di un libro, che è molto più a disposizione in modo permanente, in tutti i giorni, a tutte le ore, che non la conferenza parlata. Aprendo a caso il libro, mi sono anche reso conto di tante finezze di formulazioni, di formulazione. Si parla dei sentieri del silenzio e comunicazione e cose simili, che qui si incontrano e che forse erano volate via con l'ascolto della parola. Ancora una volta, i due coordinatori del convegno, cioè il professor Massimo Baldini dell'Università di Perugia e il dottor Silvano Zucal, hanno dedicato la loro fatica accurata ed attenta all'edizione del libro. E io qui sono in dovere di esprimere loro la gratitudine reduplicata e la soddisfazione più viva del nostro istituto. Come ha accennato anche il nostro presidente, l'edizione di questi due volumi rappresenta anche un momento particolare nella fecondità produttiva del nostro istituto. Alla serie ordinaria delle nostre pubblicazioni, di carattere teologico prevalentemente, usciti presso le edizioni deoniane di Bologna, affiancata già essa dalla serie Smaior, nella quale recentemente sono usciti gli atti digitali di Bernardo Clesio, dei quali ancora parleremo, e per la quale, è bene che lo si sappia e si tenga presente, si sta preparando da anni l'edizione critica ad opera di un gruppo di studiosi guidati dal professor Claudio Leonardi dell'Università di Firenze, l'edizione critica dell'agiografo trentino Bartolomeo da Trento, impresa molto responsabile e molto impegnativa, al punto tale che basta pensare che i padri domenicani a cui Bartolomeo da Trento appartiene, fino ad oggi, non sono ancora da parte loro addivenuti a questa edizione per le molte difficoltà tecniche che essa presenta. Ecco, a queste iniziative editoriali si affianca ora la nuova serie Religione e Cultura, che in veste molto elegante e nuova porta il vecchio e benemerito timbro della editrice Morcelliana di Brescia, e sono lieto di salutare presente in questa occasione il dottor Minelli, il direttore dell'editrice Morcelliana di Brescia, col quale abbiamo preso contatto un anno fa per affidare ad essa una certa eccedenza, chiamiamola così, se si può dirlo senza toni così diminutivi di valore, di produzione nostra che andava accumulandosi e che cercava veramente una casa editrice corrispondente alla materia e anche disposta a impegnarsi per il miglior successo della edizione. Abbiamo trovato grande comprensione presso la editrice Morcelliana e direi anche una corrispondenza qualitativa che veramente si lascia raccomandare. Per questa serie e per le intenzioni che ha questa serie Religione e Cultura, di cui questa serie Religione e Cultura si fa portatrice, ci sembra sia molto significativo il libro che con essa si inaugura. Attenzione a una problematica religiosa non puramente confessionale, ma vista in tutta la sua vastità umana e cosmica. Dialogo interdisciplinare con ogni fronte della cultura umana, con ogni intuizione ed esperienza che ci possa aiutare nella ricerca. Anche a costo di ripetermi, sull'argomento che fu già oggetto del convegno ed ora è oggetto del libro. Vorrei ricordare ancora la parola del Cardinale Martini, che vedeva come il nemico numero uno di Dio nei nostri giorni non tanto l'ateismo moderno, quanto piuttosto il frastuono. Nelle recenti considerazioni del convegno di Aquileia, affiorò più volte nelle nostre discussioni la constatazione di come la scienza e la tecnica dell'epoca moderna, gli stessi sistemi filosofici e i gusti letterari, tendano sistematicamente come a rimuovere l'attenzione dell'uomo da ciò che lo interroga e lo porta al di là della propria sfera. Ci sembra che un tema come quello del silenzio offra un aiuto raro e necessario per chi sente di riflettere in questa direzione, tanto se appartiene al mondo dei credenti come per chiunque altro è mosso dall'inquietudine della ricerca. E questi sono i motivi spirituali per cui ci felicitiamo cordialmente con gli autori e con i collaboratori, con i coordinatori e con tutti quelli che hanno contribuito alla stampa di quest'opera, e ci auguriamo di poter continuare fecondamente questa linea di presentazione e di espressione spirituale. Mi incombe ancora l'obbligo di ringraziare le autorità intervenute, in particolare l'assessore alla cultura della provincia di Trento, l'assessore Grandi, al quale passerò subito la parola, vero? Per poi invece passare la parola direttamente ai due relatori che hanno accettato di esporci il loro pensiero e il loro giudizio sul libro. Per primo parlerà il professor Mario Micheletti, ordinario di filosofia morale presso l'Università di Siena, che esporrà in modo particolare i contributi di ispirazione filosofica contenuti nel libro. Poi Enzo Bianchi, personalità già notissima tra di noi, che più volte è stato presente nel nostro ambiente trentino, attualmente presidente dell'Istituto di Scienze Religiose di Bologna, dunque anche collega e fratello nostro anche su questo piano, priore del monastero di Bose, vero, che commenterà i contributi di taglio religioso. Infine passeremo la parola ai due curatori, ovviamente il professor Massimo Baldini e il professor Silvano Zucal, che potranno dire qualche cosa sulla loro esperienza sia in rapporto al convegno sia in rapporto alle edizioni. Grazie. Una parola, che peraltro sarà molto breve, per salutare prima di tutto, a nome mio personale, ma direi proprio a nome delle istituzioni che rappresento, tutte le autorità presenti. Cito solo il presidente di questo grande istituto, il senatore Kessler, e il presidente dell'Istituto di Scienze Religiose. Ma il saluto va ovviamente a tutti gli operatori culturali, a tutti gli studiosi, a tutte le persone che sono intervenute. E permettetemi di unirmi proprio con grande convinzione a quelle parole di apprezzamento che già sono venute sia dal senatore Kessler che dal monsignor Roger, rivolte alle capacità di cui vi sono segni più che tangibili di queste istituzioni culturali, ma se mi permettete anche di queste persone che ormai dentro questo contesto che registra una crescita significativa di interesse ma anche di capacità vere della cultura in questa terra trentina, si distinguono in modo assolutamente significativo. Ed allora certo non può mancare una parola convinta di apprezzamento da parte di chi ha questa delicatissima responsabilità di gestire quest'ambito di competenze che attengono proprio la scuola e la cultura. Perché? Perché per convinzione, aggiungerei per formazione, noi siamo estremamente convinti che ricco debba essere il tessuto esterno alle istituzioni e che le istituzioni debbano trovare le vie giuste per raccordarsi e per valorizzare questo grande patrimonio che è dentro le comunità. In questo senso, certo, poi le istituzioni hanno un obbligo irrinunciabile, ma non è certo quello di fare, o peggio ancora, di produrre cultura, ma è piuttosto quello di essere a fianco, strumentalmente, in senso positivo ovviamente, con chi dimostra di avere le capacità, le abilità, l'interesse per fare cultura nel vero senso della parola. Ed allora il mio apprezzamento è veramente convinto in questo caso. Si raggiunge un traguardo significativo e quindi il ringraziamento va a tutte le persone che hanno dato il loro indispensabile apporto. Credo che quest'opera segni effettivamente un traguardo raggiunto, rappresenti uno strumento utile in più direzioni. Ed allora il mio complimento va anche per l'area tematica scelta, va anche per i percorsi culturali che si sono voluti e che si è saputo compiere. Questo tema interroga, lo è scritto anche nell'invito che ci è stato mandato, un po' tutti, il teologo, lo storico, l'artista, ma interroga sicuramente anche il politico. Ed allora credo che noi che rappresentiamo questa parte non siamo solo qui a portare il saluto, ma certamente non vogliamo aggiungere nulla a quanto già è stato fatto sul piano proprio dell'approfondimento, dell'indagare. Certo che la politica deve affrontarlo, questo problema, sia della parola, perché probabilmente anche le giornate di questi giorni sono testimonianza di molte parole che dicono poco, ma dall'altra forse la politica deve veramente riappropriarsi anche di questo tema del silenzio, anche qui peraltro riappropriandosene in modo giusto, perché c'è poi anche il rischio dei troppi silenzi nella politica. E quindi veramente io non posso che ringraziare per il coraggio, ripeto, di aver voluto indagare attorno ad un'area tematica di grande interesse. Ed allora, concludendo, permettete che io porti qui proprio una, come dire, una sorta di testimonianza che è proprio del politico, forse dell'amministratore, aggiungerei per modestia qualunque, che però cerca di dialogare con chi incontra dentro le istituzioni e con chi incontra poi nella comunità civile. Per dirvi che cosa con questa testimonianza? Che vi è, al di là di quanto generalmente si afferma e anche al di là di quanto qualche profeta, forse troppo disarmato, afferma, che vi è in molte persone, io vorrei aggiungere quasi in quasi tutte, in ogni persona, una grande domanda. L'epoca che viviamo sicuramente manifesta questo. Una grande domanda di senso, una grande domanda di qualità, una grande domanda che potremmo definire di beni immateriali. E però, con altrettanta onestà, io debbo dire che a questa domanda non sempre corrispondono le risposte giuste, anzi, forse i problemi veri oggi li abbiamo su questo versante. Vi è una sana domanda che viene espressa da parte della gente rispetto a risposte non sempre adeguate. Ed allora permettete che io legga in questo gioco silenzio e parola anche quest'altro gioco, domanda e risposta, che sempre non si incontrano o che spesse volte si allontanano. Ed allora in questo senso il ringraziamento, perché mi pare che quest'opera così monumentale, che è frutto veramente di un grande lavoro, può essere strumento utile anche per chi opera dentro quest'ambito delicatissimo della politica, e in questo senso io non posso che rivolgere veramente una parola di convinto ringraziamento ed apprezzamento. L'ultimissima parola la voglio riservare a quell'accenno che è fatto nella prefazione, che parla della famosa collana religione e cultura, per dichiarare tutto il mio interesse anche verso quest'altra occasione, quest'altra opportunità. Mi piace poter dire che qui possiamo prendere atto di un solco che forse è destinato a restringersi, che quindi anche la cultura può dialogare con la religione e viceversa. E quindi anche da questo punto di vista, e per questo, un particolare ringraziamento, con l'assicurazione che vedremo di essere con convinzione al fianco di tutti quei soggetti, ma anche di tutte quelle persone, di tutte quelle istituzioni culturali che dimostreranno nei fatti di essere veramente capaci di raggiungere risultati significativi, come è quello per il quale siamo qui questa sera. Quindi grazie proprio di cuore, e un augurio che questo sforzo sia veramente compreso, abbia veramente il seguito che merita. Grazie e auguri ancora.